Oh, it's wonderful. The view is just... Meraviglioso, vero? Yes, meraviglioso. Ecco il menù e la carta dei vini. Grazie. Allora, che cosa vuole mangiare? Oh, the menu is all in Italian. Certo, siamo in Italia. Vuole un antipasto? Antipasto? Sì, e starter. What do you recommend? Dunque, un antipasto toscano, naturalmente. Non è vegetariana, vero? Vegetarian? No, no, no, I'm not vegetarian. Why? Perché c'è il prosciutto, il salame, la finocchiona. It is pork. Okay, I'll try it.